La parola al professor Renato Giusti per la sua relazione. Tra le molteplici vie che potevano seguire per affrontare il tema proposto, assai complesso peraltro proprio per la brevità del periodo da eliminare, tre in particolare avrei potuto percorrerne con qualche speranza di positivi risultati. O lo studio dei documenti ufficiali delle singole province durante la dominazione austriaca e di quelli veneti e viennesi della rotazione di ministeri, oppure la presentazione a titolo di esempio di alcune figure eminenti della politica, dell'amministrazione pubblica e della magistratura dell'armata, nelle quali si potesse cogliere il nesso tra potere centrale e locale, posto in evidenza tanto nella pratica quotidiana di intervento e di governo, quanto nell'eventuale teorica elaborazione di scelte o nella differenza di orientamento. Oppure l'analisi circostanziata di un aspetto soltanto, di una branca dell'amministrazione austriaca nelle province venete. Alla carenza di ricerche preparatorie particolari, la complessità e l'intreccio delle questioni, la periodizzazione medesima mi hanno portato a soffermarmi su considerazioni più generali, specie perché quei quesiti che molti anni fa esplicitamente il Sestani ebbe a proporre in modo descritto nel tracciare un panorama dello stato degli studi del Veneto nel 1866, restano ancora pienamente validi. Né adesso venne data risposta articolata o complessiva circa la storia delle strutture, della società, la politica economica, l'economia pubblica e privata, la storia interna del Veneto. Su un punto, che non mi pare di trascurare di importanza, siamo del tutto all'oscuro, scrive il Sestani, anzi un punto per quanto mi costa nemmeno mai prospettato come problema. Ed è questo, come considerò il governo di Vienna, le province venete tra il 59 e il 66, come un possesso solo provvisorio nel nuovo Stato nazionale italiano, e se lo considerò in questo modo, ci fu un riflesso di ciò nell'attività amministrativa, ci fu una stanza rispetto al periodo precedente al 59. Naturalmente il quesito non riguarda solo le province venete, in questo caso si può porre solo le province venete in queste dimensioni e non certo per il Trentino o per le altre province litorali che erano saltamente e completamente dimenticate dall'impero. Se la dirigenza della classe politica del 59, principalmente in alcune sedi, Parigi, Torino, Vienna, Londra, si trova il filo conduttore di un intreccio e di un discorso politico diplomatico, uno specchio non deformante di esse, nell'ambito di una cronaca che non esaurisce di certo il loro significato, è fornito da un quadro regionale, in tale vicende subisce dirette conseguenze. Tale è il caso dell'Opato Vengo, che partecipa in forme assai evidenti alla generale condizione del momento, nel 59, attraverso l'inquietudine degli spiriti, l'alienazione dell'autonomia dei centri intelligenti, l'inizio dell'immigrazione. Il delegato provinciale di Vicenza, ad esempio, parlava di speranze di guerra in primavera che si sostengono nel partito avverso al governo, il quale tenta di mantenere le linee in pubblico con qualunque mezzo gli si presenti. Vengo adiuvato in questo da reticenze, da commenti, da sottintesi che purtroppo rispondono di grande impatto in taluno dei periodici non ufficiali del regno. Due errori vengono sottolineati per questi primi mesi del 59. Uno indicato dall'ambasciatore Pollinger nel suo quadro resumé per il 59, e cioè l'invio di truppe del Baldovento che avevano suscitato il sentimento delle popolazioni e messo in difficoltà in varie occasioni le stesse autorità civili. Il secondo più grave errore, causato dall'orgoglio e dalla volontà di isolare l'Europa, è determinato, rappresentato dalla condotta diplomatica dell'Austria con il progressivo isolamento del governo imperiale. Ben in questi mesi andava estendendosi la tensione nell'Opato Veneto tanto che quasi tutti i delegati provinciali non potevano che registrare il significato e la portata di questa impegno. Non so a rappresentare né a citare a questo proposito per il primo mese del 1859 dai bollettini provinciali o dai dispacci e dalle note informative della direzione superiore di polizia. Voglio rammentare invece a questo proposito una frase soltanto dal Times del 17 marzo del 59 che direi registra la situazione. Dal di fuori, la Lombardia e Venezia si sentono proprietà di Vienna e i loro abitanti suoi terri. Un tale stato di cose può solamente essere mantenuto dalle più numerose truppe, che in pari tempo sono una maledizione per il popolo sopra di cui sono poste e un terrore per i vicini stati. Sarebbe un guadagno in forte lezione per l'Italia, per l'Europa, per tutto il mondo, se si lasciassero gli italiani governanti da se stessi, nel caso che si possa loro affidare questa somma di libertà. Una prima risposta dell'aprile del 59 è in una placchetta di Valentino Pasini. L'Austria nel Regno Lombardo-Veneto che sottolinea la sua amministrazione, lettere a Lord Derby, nella quale Placchetti il Pasini, appunto all'inizio del 59, quando ancora pendeva incerta la sorte del congresso, proposto di fronte alla minaccia di guerra, credeva opportuno esporre le ragioni per le quali all'Austria sarebbe convenuto, senza il cimento delle armi, di cedere le sue province italiane. È una dimostrazione stringata, succosa, della necessità finanziaria da parte dell'Austria di abbandono del Lombardo Veneto. Pasini determina il disavanzo annuale del bilancio austriaco, computa l'avanzo che dal Lombardo Veneto ritraeva l'erario austriaco, a fronte del quale era costretto a spendere una cifra enormemente maggiore per fare l'esercito dello strumento di dominio di cui appunto il Times un mese prima faceva cenno. In questa direzione, vedendo attraverso due situazioni, la situazione di Lombardo Veneto, acquistano a rilievo la pressione ideologica all'interno e all'estero, le sollecitazioni ai fini di un sempre più largo consenso alla causa nazionale, le corrispondenze patriottiche, gli appelli ai coscritti e ai funzionari italiani perché abbandonino esercito e uffici dello straniero oppressore. Traditori del proprio paese vengono chiamati, ad esempio, in un indirizzo nell'aprile del 59, quei funzionari italiani delle province lombardo-venete che costituiscono il meccanismo di governo dell'Austria in Italia. È una situazione totale. Apparentemente, le di lui del governo austriaco forte hanno appoggio sulle baionette e sui cannoni di un esercito numeroso, ma né compatto né fedele. La forza vera, però, la forza più attiva e potente, i mezzi più efficaci ed immediati per combatterci, li sono offerti e mantenuti da voi, si rivolge ai funzionari italiani. Non è forse per l'opera vostra che egli avviluppa in una fitta rete di catene il nostro paese, che inceppa e sorprende la parola e l'azione, diffonde e mantiene il sospetto della delazione, provoca l'incidente di timore, di modo che con grande difficoltà si può disporre e valutare quelle forze, le quali, una volta rovinate, non lascerebbero dubbio ad una certa pronta e facile vittoria? Un appello di questo tenore non spingeva peraltro alla diversione o all'aperta resistenza all'Austria. Si limitava a far sì che in diversi uffici politici, civili e amministrativi mancasse alle autorità austriache appoggio e consenso. Al volere del governo opponete in ogni punto, ove richiamano le vostre mansioni, una resistenza muta, accorta, unanime, costante. Rompete con l'inerzia il meccanismo della tirannia. Gettati dal mezzogiorno e nello spavento. La fiducia invaderà il passato e siate convinti l'esito della lotta non sarà dubbio. La parola però era ormai al cannone, dopo il proclama del 28 aprile dell'imperatore francese. E rapidamente entra in vigore tutti i dispositivi già predisposto dal gabinetto imperiale con l'interazione a di guerra, e non sto a rammentare questi aspetti. E neppure voglio fermarmi sulla condotta delle operazioni, se non per citare l'ultimo nella conclusione, l'ultimo tradimento, o l'ultimo risentimento per i preliminari di Vita Franca, che dai Veneti in particolare viene indicato una seconda campo corrido. Come italiani che siamo innanzitutto, la nostra gioia è amareggiante e poco meno che distrutta dal pensiero che tra i giovani fratelli di Italia e Gallo del Mincio, i quali per tanti anni furono compagni di dolori e di speranze, i generosi conati restino a portare immediatamente il peso di quella signoria onde noi ci riputiamo gran sorte di essere stati liberati. Non si tratta di un discorso di pura convenienza politica. Le memorie dei liberali, le lettere, le corrispondenti, i bollettini trimestrali o semestrali delle autorità austriache a questo proposito sono sufficientemente concordi, registrano lo scoramento profondo in dolore di ogni strato della popolazione all'indomani di Vita Franca. Del Regno Lombardo-Veneto resta in larga misura soltanto il nome Regno Lombardo-Veneto, perché di Lombardia al Regno Lombardo-Veneto resta soltanto una porzione del Mantovano. E prima di andare più innanzi, a questo proposito, vorrei almeno rammentare questo aspetto. Vogliamo riferirci al Mantovano perché la provincia venne smembrata in conseguenza della guerra, con uno stacco di 117.000 abitanti, circa i 3/7 della popolazione totale, con 273.000, di un etimo di scudi di 5 milioni e circa un terzo del etimo totale di scudi di 14 milioni e 416.000, con le diverse conseguenze in tutti i settori della vita economica, amministrativa e giudiziaria, con l'inaridimento delle fonti medesime della produzione e dell'economia, con il riferimento della funzione della città, che era centro propulsore e coordinatore dell'attività provinciale, ma che in realtà restava, come Verona, vero, Legnago, come Peschiera, soprattutto la città fortezza. Si accentuava, ripeto, oltre misura il carattere di contesto, perché diventa appunto Fortezza, la città fortezza di confini, e ciò avviene a scapito del tradizionale commercio di transito, della struttura agricola del territorio, ove un severo sistema di polizia e il palese isolamento delle autorità civili nel confronto della popolazione, la resistenza passiva dei mantovani non lasciava intravedere nulla di ben definito per il futuro, sia nei mesi del 59, sia negli anni immediatamente successivi. Anche le autorità austriache, però, per tutto l'anno e in seguito, non nascondevano soprattutto a se stessi, che la tranquillità delle popolazioni, sia del Mantovano che delle altre province del Veneto, doveva essere accolta con beneficio di inventario, dato che un'occasione qualsiasi avrebbe potuto trasformare quella calma in eccitazione e in atti insurrezionali. Come l'idea della Confederazione italiana non raccoglieva consensi da parte dei patrioti e le prospettive di riscatto del Veneto per Danaro non sembravano possibili di realizzazione, così ben presto i bollettini trimestrali delle delegazioni, i rapporti del Bismarck prima e del Togliatti poi a Vienna, ci arricchiscono di retrodominazione, guadagnando per la scarsezza degli affari, la crisi economica, il rialzo dei prezzi, la pressione fiscale, gli atti brigantaggi, il contrabbando, le iniziative politiche degli emigrati, il comportamento dei funzionari. Per quest'ultimo aspetto, anzi, il ministro dell'interno, il conte Gregore Bulkowski, al fine di attuare sollecitamente nella legislazione e nell'amministrazione le riforme accennate nel manifesto imperiale del 19 luglio 59, stabilire un'amministrazione compatta e forte, corrispondente in generale all'interesse di unità della monarchia, ma tale però che in pari tempo garantisca il cambio all'impossibile riguardo e valutazione delle specialità dei singoli domini. Se non si poneva in termini molto diversi rispetto al passato il rapporto tra autorità centrale e organi periferici, le singole amministrazioni comuni, opere figlie, istituti culturali, eccetera, avevano un legame di subordinazione diretta o indiretta di rapporto con l'autorità centrale, venivano sottolineati il dovere di ogni servo dello Stato di non mancare alla giurata fedeltà, la cooperazione zelante e leale di tutti gli organi, la osservanza delle leggi senza rilassatezza o debolezza, al fine di eliminare il malcontento nei tutti. Gli uffici e i funzionari sono chiamati a dirigere della popolazione nell'interesse dell'ordine legale, prestandole incondizionatamente la tutela portata delle leggi. E perciò è ulteriore e essenziale obbligo di ogni servo dello Stato di mantenere negli ufficiosi contatti con le parti un tratto umano, vite e ispirante di tutta. Ma quale esito avrebbero avuto e avrebbero dato le progettate riforme in un ambiente largamente ostile, mentre la raccolta segreta di schede e firme per la cessione del Veneto al Regno di Sardegna, gli appelli dei comitati di liberazione, la non accettazione dell'amnistia del perdono concesso all'Austria, significavano in sostanza il consenso verso un'Italia indipendente e il rifiuto di un'Austria, anche moderata o liberale. In particolare, il plebiscito segreto dei comuni veneti, la sottoscrizione dei milioni di fucili lanciata dalle Ribaldi nel settembre del 59, la circolazione di giornali politici non provincio, l'atteggiamento esteriore o la condizione di molti impiegati dello Stato, l'indifferenza infine di fronte ad alcune concessioni sovrane davano alle autorità politiche materie di riflessione e di dubbio. Nel Paese, ad esempio, le concessioni generose e caratteristiche sono accolte col silenzio consueto. Analogamente, da parte della potenza si stigmatizza il comportamento di larga parte degli impiegati, si meraviglia che le autorità politiche non riescono a comprendere le dimostrazioni e quel sistema di intimidazione, il quale venne poi posto in opera per produrre il disordine e la disorganizzazione delle comunali istituzioni. L'arrenamento infine del commercio e dell'industria e con tanti mezzi la diffusione al contento negli anni. Se molti impiegati davano l'esempio di un retto e leale adempimento dei propri doveri, il servizio prestato da molti altri, in linea politica, si riduceva soltanto ad un servizio di forma, tendente a salvare le apparenze, mentre altri ancora dimostravano la loro simpatia per il partito ostile del governo, offrendo con ciò essi medesimi quello scandalo che sarebbero obbligati a reagire. Quello che vorrei lamentare è che molto c'è ancora da fare per questa storia interna delle province veneto durante il primo cinquantennio dell'Ottocento e soprattutto nel periodo tra il 1848-49 e il 66. Finora lo scarso interesse è stato portato in Italia alle questioni di carattere amministrativo, legislativo, sanitario, eccetera, degli stati prioritari del Veneto in particolare, alla storia delle strutture, delle istituzioni, della burocrazia italiana, da offrire. Ma anche insomma per il Veneto, un'opera analoga a quella del Kramer sugli italiani della monarchia burgica, mentre il riferimento di rito abituale ci riporterebbe alla lontana opera del Santonà 1912, mentre le citazioni di lavori più recenti sarebbero limitate da alcuni scritti di John Rath relativi al periodo 14-21 di Della Perugia e soprattutto di Marino Perugia, al quale dobbiamo la splendida relazione di ieri. Ma per tornare in argomento e per non tenere gli ascoltatori in per gli scrupoli, le perplessità, mi parla, voglio almeno accennare all'importanza che per informarsi dell'opinione pubblica e lo stato della conoscenza all'estero degli stati italiani ebbe la pubblicistica nell'anno del 59, dalla pubblicazione del primo dei due opuscoli di Visconti da Veronier al secondo del padre Fondelet. Le polemiche scatenandosi in Francia, nelle battute più vive e scottanti a proposito della questione italiana. Di cui significato, accanto alle altre questioni europee, è sottolineato dal susseguirsi, dall'intrecciarsi, dai 59 e 60, di brochure anonimi, scritti firmati o attribuiti, che insistono sulle connessioni dei grandi problemi, le prospettive della vita politica napoleonica, della politica napoleonica in Italia e di quella francese in Europa, la fede dei trattati, i rapporti tra Austria e Germania, l'Italia e l'impero di Germania, l'eternità o meno dei trattati del 15, eccetera. Sono tutti titoli di brochure e molti altri ne potrebbero aggiungere. Qualche autore, per esempio il conte di Lomel, parlando di Venezia nell'ambito della Confederazione Italiana, ne suggerisce l'abbandono previo compenso territoriale. E ripropone per Venezia lo stato di città libera. Di tanto in tanto riaffiora, così come per Trieste, questo progetto di città libera. E aggiungo, essa è qualche cosa, diventerà qualcosa di analogo delle città anteantiche, e solo nella scala politica avrà una particolare gradino, una particolare collocazione. E sarà alla parte integrante di una nazionalità, ma in una parola sarà una città federale. Tralascio di procedere nelle letture di citazioni dai bollettini o dai resoconti circa le speranze delle riforme da parte di alcuni ceti e circa il rifiuto, il non consenso da parte di altri alle manifestazioni antiautocratiche, alle dimostrazioni, al comportamento tra il 60 e il 61 della popolazione delle varie province. Stando agli appelli dei comitati, alle condizioni dello servizio pubblico, alla grande qualità di assenti legali che nella logodente proprio del movimento, dove è entrato al meeting nel febbraio del 60, intendeva richiamare in parte, la resistenza o rifiuto da parte di esponenti qualificanti a partecipare ai consigli e agli organi di amministrazione del Veneto. È da dire che siamo ben lontani da quella formula di resistenza passiva con la quale si vuole più tardi sminuire e caratterizzare il contributo dei Veneti alla liberazione del paese. Come siamo lontani da una particolare incidente presenza o influenza di orientamenti democratici e repubblicani. Il Comitato Politico Centrale Veneto, ad esempio, al di là di ogni prospettiva di guerra, tendeva a inculcare nelle popolazioni soggette uno spirito di ostinata e tenace resistenza, che significava per un verso rifiuto di insurrezioni giudicate impossibili, per l'altro una rivendicazione continua, senza cedimenti di volete, della libertà e dell'indipendenza nazionale. Non dunque un comodo espediente trovato dai Veneti per scansare visti e partiti, una specie di supina crescente al destino, ma piuttosto una costante e sistematica opposizione in pubblico e in privato a tutti gli atti dell'ordinato governo, a tutti gli ordini del suo potere, a tutte le manifestazioni della sua volontà e della sua forza, respingendo da lui persino quei benefici che pur qualche volta avrebbero potuto conseguire nel campo puramente amministrativo. Il cavalletto, di cui cito la frase, rivendicando al Comitato Politico Centrale il merito di non aver promosso agitazioni fittizie, aveva sempre raccomandato la conciliazione e la concordia tra le mani della nazione e del Partito Liberale. Aveva stimolato una resistenza coraggiosa e legale al governo straniero, quale per esempio ebbe ad esprimersi nella primavera del 61 con l'elezione del Consiglio dell'Impero, con il rifiuto di accettare la nomina e il mandato di rappresentante del Veneto nel Consiglio medesimo, e più ancora con le elezioni in Italia per la dieta cosiddetta del Messina. Ci sono, a questo proposito, varie possibilità di citazione da Verona, Venezia, da Polesine, come sono vengono accolte le risoluzioni sovrane che chiamavano i rappresentanti del popolo a compartecipare alla facoltà legislativa del governo. Bene, possiamo dire che sono sufficientemente concordi dal Polesine, come da Verona, da Venezia, come da Mantova, come da Belluno, perché queste sovrane risoluzioni non furono soltate con l'entusiastica riconoscenza che avrebbero meritato, ha detto dai delegati provinciali, non essendo stata valutata a pieno l'importanza. Anche in Austria si era compreso che per superare la crisi politica, militare ed economica all'indomani della sconfitta del 59 era necessario dare avvio a un nuovo indirizzo politico. I tanti tentativi per realizzare le riforme costituzionali che forse nel manifesto imperiale dell'Assemblea del 15 luglio 59 e nel Verfassung der Reichsrat del 5 marzo del 60 ebbero il primo timido accenno, sono compiuti sulla via di strutture costituzionali liberali, urtando contro resistenze di vario origine e colorazione in uno Stato plurinazionale, fino a che il diploma imperiale del 20 ottobre del 60 ebbe a inaugurare definitivamente l'era costituzionale austriaca, ma non tanto con il Reichsrat, quanto con l'ordinamento provinciale che avviava in modo differente rispetto al passato la vita amministrativa, se non quella politica della popolazione. Ma dopo la patente imperiale del 5 marzo del 60, circa l'ampliamento del Consiglio di Impero, ricordiamo l'ordinanza imperiale circa l'autonomia e la sfera della congregazione centrale del maggio del 60, alla quale veniva accordato di decidere in seconda istanza progetti di competenza dell'amministrazione provinciale per quei primi di deliberare su altri affari che c'erano limiti legali della sfera d'azione della congregazione provinciale, di decidere infine su altri oggetti amministrativi su cui aveva in precedenza poteri consultivi. Contro le decisioni della Commissione centrale era possibile il ricorso agli amministrativi. E tale congregazione centrale, con deputati nominati dall'imperatore, incominciava i suoi lavori nel giugno del 60, presieduta dal luogotenente Cotto. Ma solo con la patente, nel febbraio, 26 febbraio 61, si aveva un sistema più rappresentativo di intonazione liberale, anche se le leggi elettorali messe alla patente si ispiravano al principio della rappresentanza degli interessi, mirando alla conservazione sociale e assicurando il predominio di alcune nazionalità. In particolare col paragrafo sesto della patente, relativo al Lombardo Veneto, si conferiva alle congregazioni il diritto di nomine di 20 deputati, sulla base delle proposte dei corpi comunali di un regno, consigli e convocati, nella misura di 810 del Veneto e di 34 del Mantovano, avrebbe dovuto dare il 16 aprile del 1800. Ma mentre veniva proclamato a Torino il Regno d'Italia e si intensificava nel Veneto la propaganda liberale proveniente dall'esterno, dal Comitato Politico Centrale Veneto si operò validamente affinché l'esito delle elezioni assumesse un significato, di fronte all'opinione pubblica di tutta Europa, dell'amplissima avversione dei Veneti al governo. E l'esito per l'astensione del voto dalla priorità dei comuni, in particolare di tutti i capoluoghi di provincia e di distretto, il rifiuto di accettare la nomina alle istanze ufficio ad opera della luogotenenza da parte di coloro che erano stati nominati, fu disastroso per il governo, nonostante le intimidazioni, le minacce e gli arbitri commessi ad ogni livello. Il Consiglio dell'Impero non ebbe così rappresentante del Veneto. E proprio sul fallimento di tali elezioni ebbe ad insistere qualche tempo più tardi nel tracciare il panorama politico di tutto l'anno il delegato provinciale di Verona, attribuendone senza infingimenti ogni merito al partito sovversivo, al quale era riuscito, dice, di trattenere gli eletti a membri della Chiesa d'Impero dalla cessazione del relativo mandato. E non può negarsi che tale partito, perché provvisto di forze da poter ottenere dei risultati più importanti, esista e lavori, cercando nuovi eletti e sperando sempre di non venire. Per quanto le autorità tengono gli occhi aperti, non è nato di infrangere di capo, per cui quella pullulano i suoi frutti, senza però includere serio timore per la pubblica pietra. Senza insistere ulteriormente sull'azione dei tali comitati in quegli anni, quale risulta dalle carte di cavalletto del Comitato Centrale, dell'Archivio dell'Immigrazione, e da dire che molte trame sono registrate anche nelle relazioni trimestrali alla Presidenza o nei dispacci del direttore della Polizia Stradale. Di grande utilità queste relazioni, specie quando tendono a rappresentare le condizioni politiche ed economiche di una provincia, a interpretare e non solo a descrivere i motivi recenti e remoti di una rassegnata attesa con una forma di resistenza. Le ragioni, insomma, alla fine, dell'isolamento in cui si trovarono le autorità austriache che non governarono nel Veneto, che governarono nel Veneto ma non governarono sui Veneti. Il diploma imperiale del 20 ottobre del 1860 e annessi atti che avevano determinato la base legale della nuova conformazione dell'impero e le norme della partecipazione concerta alle varie classi dei cittadini nella trattazione degli affari generali e particolari, inaugurarono veramente una nuova vita politica, una nuova vita pubblica. Facilitarono, ed è una domanda, un'autonoma cooperazione dei sudditi a trattare pubblicamente e tutelare gli interessi delle varie province. Per il Veneto, la risposta al quesito, che riguardava l'organismo importante della stampa dell'opinione pubblica nel nuovo ordine di cose, viene soprattutto in molteplici modi da varie angolazioni. L'esito delle elezioni del Consiglio dell'Impero, la diffusione di programmi esitanti popolo a non pagare imposte, le dimostrazioni antiostili, l'internamento nella fortezza di Ormuz di individui pericolosi di la politica, il rifiuto di municipi, di deputati comunali di ottemperare a precisi ordini superiori, denunce di assunti assenti legali, presenza alle cerimonie ufficiali. L'atteggiamento talora disinvolto e passivo dei commissari distrettuali di fronte alla violazione della legge, il divieto alle camere di commercio di partecipare alle esposizioni di prodotti industriali a Firenze. E così, e vorrei elencare una serie di altri motivi che si possono a questo proposito desumere dalle relazioni trimestrali o semestrali. Preferisco invece citare una profetta fra le tante di un libello che viene diffuso alla fine del 61 a Venezia, alla barba del Bembo Podestà della città. La venuta dell'imperatore suscita una serie di opposizioni, polemiche e probabilmente di libelli, di profette, di poesie anche in dialetto veneziano. Ho trovata una, che mi pare una certa la città, leggo alcuni versi soltanto. Alla barba del Bembo, per le nostre del nostro decoro nemico, con tutta la sua grande dominazione, in piazza, non leggera, e calico, e salto. Infatti, compatimo segretario, ma se protetti, non è l'inesto, e la volanza è questa, e lo vuoi ora proprio dai piedi, tutto a testa, cioè in sostanza, il rifiuto è, secondo queste indicazioni popolari o popolari, abbastanza netto. D'altra parte, non attraverso questi esempi di tensione o di accensione di sentimenti si possono valutare le forme e la sostanza. coordinando i rapporti tra i vari organismi amministrativi e politici del Novatorese, tra potere centrale e periferico e popolazione. Quando ben più veramente altri elementi risultano significativi. La compromissione e l'arresto di pubblici impiegati, il rifiuto di molti eletti ad assumere incarichi dell'amministrazione comunale, il contegno politico ostile in numerosi consiglieri comunali, le critiche all'amministrazione della giustizia civile e penale, i timori delle autorità per la somministrazione di notizie e dati statistici, specie prescritti all'estero. Il delegato di Vicenza, per esempio, se in precedenza aveva stigmatizzato il comportamento del collegio provinciale, che in concreto, formato da elementi perniciosi determinati da uno spirito di sistematica opposizione, paralizzava così al centro come al di fuori ogni influenza d'azione della governativa autorità, all'inizio del 62, dopo una visita all'intera provincia, pur riconoscendo un qualche miglioramento delle condizioni politiche, metteva in chiaro le molte venere per lo sviluppo economico del paese, lo scarso peso dell'attività industriale commerciale, la mancanza di capitale e infine il malcontento largamente diffuso nella provincia. Tale problema, in particolare ricordato da molti altri deputati provinciali, da pubblicisti, scrittori di storia economica, era veramente di difficile soluzione, tanto più che il Lombardo Veneto per circa un cinquantennio aveva realizzato una certa integrazione di unità economica, interrotta o sospesa nel 59 per le vicende politico-militari, mentre non si era ancora trovata una via che potesse bilanciare, per esempio, i dati tra Lombardia e Veneto. In realtà, sia per lo sviluppo pubblico, sia per le condizioni economiche, non i mezzi, le forze delle autorità di governo potevano avere qualche influenza, ma soprattutto l'andamento della politica estera, gli eventi internazionali, tanto più che il nuovo regime d'Italia si presentava come informale, come un regime alternativo per i dubbiosi e gli indifferenti, mentre nei vari rami dell'amministrazione statale, specie magistratura e finanza, molti impiegati non nascondevano le loro propensioni, contribuendo a tenere viva la pubblica fiducia. In tale stato di cose è troppo evidente come scarsa abbia a riuscire lo strumento delle autorità a ottenere miglioramenti di istituto pubblico e come un miglioramento radicale deve invece aspettarsi unicamente da fatti i quali in modo deciso possono generalizzare la condizione della stabilità del legittimo imperiale governo. Queste autorità avevano ben ristretti margini di manovra, dovendo contrastare il terrorismo che era sottoposto alla popolazione e amante dell'ordine. Dovevano incoraggiare la ripresa dei traffici e la fede nell'avvenire, sostenere i ben pensanti, il cui numero diminuiva progressivamente, combattere coi fatti le illusioni di guerra che si rinnovavano ad ogni primavera, interrompere e impedire infine le relazioni tra i comitati venti e quelli di Torino, di Brescia e di Ferrara. A ragione dunque il Togliere nel giugno del 62 rinnovando il suo appello ai delegati provinciali affinché con tutti i mezzi consentiti si adoperassero a imprimere maggiore alacrità all'azione dei dipendenti organi distrettuali comunali, stigmatizzando la inefficienza degli uffici funzionali, l'inoperosità della gendarmeria medesima, il decadimento della forza morale della corona dei servizi di polizia, il mancato uso degli strumenti, progettazione politica, eccetera, utile alla sicurezza e alla tranquillità del provincialente. Ma se il direttore della polizia Strauss, sempre il direttore della polizia, si trattava di usare la maniera forte con l'arresto preventivo dei pregiudicati politici, per il Cosmo invece era necessario evitare misure capaci di accrescere l'isolamento delle autorità e accrescere l'odio da parte del paese. E mentre a titolo preventivo in caso di pericoli veniva attuato un censimento dei patrioti più temibili, il numero di 335 per il Veneto e Mantua, il processo di San Giorgio lasciò per tutto il 62 pressoché senza guida i comitati segreti veneti. Qualche decisione imperiale lasciava per dire la concessione di uno statuto del regno. la condizione della censura preventiva, per cui l'intero domiciliare da prezzi per ordine motivato dai giudici, l'intero della libertà personale. All'inizio del 63 si tenevano in Vienna le conferenze dello statuto vecchio, alle quali parteciparono il Podestà, che qui vengo, e la Matrice Ferrari, il deputato centrale, preparando anche una memoria per il ministro dell'aprile del 63. Lo statuto prevedeva una dieta composta da rappresentanti da presidenti, commercio, le città leggi e gli altri comuni, un sistema elettorale larghissimo, una rappresentanza scelta in quella dieta del paese del Consiglio dell'Impero, l'attribuzione di facoltà legislativa alla dieta per affari riguardanti il dominio. Di aperta opposizione fu il discorso del Vento che dichiarava opportuna la pubblicazione dello statuto, come risulta dalla Gazzetta di Venezia del 15 del 69. Si potrebbero sfogliare in diversi momenti le carte di polizia, di delegazione, non direnti, di assenti legali, di individui pericolosi, studiare i processi politici e vedere l'ampiezza di questa avversione delle province venete e romane, ben al di là dell'indifferentismo politico o della resistenza passiva di cui talora parlano alcuni delegati provinciali. Ma tutto ciò andrebbe integrato da centinaia e centinaia di denunce finite nel nulla per insufficienza di prove e di indizi, prima del processo stesso, dell'inizio stesso del processo. Sia per il fatto che in ogni processo erano implicate molte persone, sia per il comportamento delle forze di polizia e delle magistrature. C'entra il problema, a nostro avviso, un rapporto della delegazione di Verona alla fine del 63, che insisteva sulle costanti, sulle aspettative dell'opinione pubblica. Poiché è inutile farsi illusioni, se anche tranquille queste province nell'esteriore contegno della popolazione, se anche riconoscenti del buon regime delle liberali istituzioni, se anche con straordinaria lungaggine di testa governate, seppure apprezzanti il prevalere con l'istituzione di un genere del finitimo Stato italiano, tuttavia tanta e così crescente ogni volta possa del sentimento nazionale, demone dell'epoca, che purtroppo suo malgrado ogni più sfavorevole apparenza, non era forse da minima fiducia di sicurezza dello Stato. Una disamina più completa, articolata, potrà dire in futuro quante persone inquisite, condannate, prosciolte, ebbero a che fare con la giustizia austriaca per reati politici, quali ceti sociali ebbero a subire il maggior peso dell'ultima dominazione, in senso di aggravio fiscale, di diretto controllo, di sconfitto delle private fortune. Certo, la circolazione delle idee è molto più ampia. Certo, il mondo del contanto non è più quella specie di riserva del sicuro sostegno delle autorità austriache in Italia. Nel Bellunese, nel Forese, nel Mantovano, la condotta del clero era censurabile in linea morale e in linea politica, con grave danno del governo, il quale con i cattivi preti perde l'affetto anche di quei contadini che formavano finora la maggioranza della popolazione e la prima base della forza armata dello Stato. Ma questo discorso ci porterebbe abbastanza innanzi e dovremmo per la stessa ragione fermarci sulla pubblicistica, fermarci sulle varie stratificazioni sociali, fermarci sulle istituzioni culturali, forse che il rapporto, come si è detto, la comune delegazioni tra centro e periferia. Le caratteristiche peculiari ebbero gli ultimi anni di tale dominazione austriaca, in vista forse di una soluzione non inattesa e da taluni auspicata, da altri aspettata con perplessità. E per dare un quadro il più leggero possibile della realtà veneta a cavallo della liberazione, bisognerebbe insistere, al di là degli eventi politici, tanto sui motivi di rottura tra un'epoca e l'altra, quanto sugli elementi di continuità storica, espressi sia dal movimento liberale, sia dalla classe dirigente che prima del 48 aveva collaborato con le autorità austriache nell'esercizio del potere a livello amministrativo, nel reggimento di istituzioni culturali, e che tra le medesime autorità aveva preso e accentuato le distanze dopo il 48-49. non le reti interne, non i tentativi riformatori di guerra imperiale, polemiche tra tutti i partiti di orientamento diverso, fornivano agli esponenti moderati delle emigrazioni o delle province venete la pietra di paragone per un giudizio politico sul futuro del paese, quanto piuttosto i nomi della grande politica, l'intreccio delle pressioni europee che potevano modificare lo status in Italia, l'amicizia o la inimicizia di qualche potenza. In tal senso, dunque, la soluzione della pressione veneta non era valutata secondo l'ottica italiana soltanto, ma era vista nel contesto politico e diplomatico europeo, nel gioco delle forze in equilibrio, per cui il peso delle infantili dimostrazioni non doveva essere sopravvalutato. Non possiamo fermarci su questi aspetti e molto rapidamente ci avviamo alla conclusione. Per il periodo intorno al 64 è diritto il riferimento a una recente opera del Blas, a quale io invio il più autorevole e più cordiale saluto e augurio da Trento. Il periodo immediatamente seguente ci riporta non tanto alla soluzione della questione veneta, quanto piuttosto all'intensificarsi dei rapporti tra il centro di centro politico, centro veneto, dell'immigrazione e la periferia, rappresentata in questo caso dalle province abbastanza ben congegnate nella loro organizzazione segreta. Il moto friulano del 64 segna, a mio avviso, il punto di crisi dell'amministrazione austriaca nella gente, confermando l'impossibilità di realizzare una effettiva pacificazione tra italiani e stranieri nella regione. Costituisce quasi un passaggio obbligato per la soluzione della questione veneta, dalla sua regione alla diplomazia all'esterno. Ma all'inizio del 65 la situazione politica fu sotto controllo delle autorità politico-militari, non tendeva a migliorare. C'è a questo proposito una serie di possibili situazioni per quello che è il comportamento delle autorità, il comportamento dei commissari virtuali e delle autorità di polizia. Le indicazioni del Topico sul comportamento delle autorità medesime sono le indicazioni, sono continue, i suggerimenti o le stimolazioni. Quel che è certo è che a queste prescrizioni, a queste indicazioni, facevano riscontro le rimostranze di qualche municipio, ad esempio Schio, sul comportamento dei militari, le iniziative liberali in vista del centinaio dantesco, gli appelli dei comitati veneti che ripetevano non essere possibile nessun patto con gli aggressori. L'intransigenza espressa in quel tempo, nel 63 e 64 e anche più innanzi, con vari appelli dei comitati. Su un punto ancora, prima di chiudere, vorrei fermarmi, tralasciando altri argomenti eventualmente in caso di critica o di discussione. Tra le riforme proposte e solicitate dal 63 innanzi e trasmesse dalla Congregazione Centrale per semplificare e meglio organizzare il mezzo, ravvisiamo la soppressione dei commissariati distrettuali, la concentrazione e l'attribuzione in vice delegazione, immediata dipendenza in diretto dalla luogotenenza della Congregazione Centrale, con minorazione di potere o addirittura scioglimento della Congregazione Provinciale, con statuto particolare per lei. Ma il Comune, che pure voleva emanciparsi dalla autorità provinciale, esprimeva il desiderio che le province fossero conservate, che la soppressione della provincia di Venezia avrebbe alterato il rapporto città-territorio e ancor più staccati tra loro i possessi di terraferma gli abitanti della città. Tali abitanti giudicavano i possessi una risorsa principale, una risorsa principale per Venezia. Le riforme progettate dal governo, le commissioni, le iniziative, non ebbero però nessun esito, poiché furono spazzate via dalle vicende politiche militari della guerra del 76. Nell'ambito della pubblicistica del tempo, una citazione possiamo consentire, e cioè di una rivista tra il 1864 e il 1876, che viene stampata a Padova, in comune, la quale rivista, il quaternario settimanale o quincinale, secondo i momenti, interessa soprattutto perché vuole trattare questioni municipali, statistiche, industriali, agricole, con un'esplicita affermazione della propria autonomia rispetto all'autorità politica. E così nel programma. Il comune, nome caro ad ogni uomo annodato dai vincoli della civile società, perché da questa compendia i diritti e i doveri, racchiude nel suo concetto generale le grandi linee in cui, raccentrandosi, si allargano i benefici della civiltà, le idee sono di famiglia, di nazione, di patria. Noi ci staremo contenti di raccogliere e di vagliare in questo periodico gli interessi non solo del comune cittadino, ma anche del comune rurale, perché gli uni e gli altri ci sembrano meritevoli di essere energicamente promossi e discussi. Impartiali, non aspiranti all'ottimo, ma al buono, indipendenti perché non legati al suo pubblico ufficio, rispettosi del debito di civiltà, il redattore si può rendere conto di obiettivi modesti, forse, ma concreti, con impatto specifico, con il miglioramento delle pubbliche amministrazioni, con il graduale sviluppo della vita economica. E se poi noi guardiamo ai nomi di questi collaboratori relatori, da Salvagnini a Morcurio, a Selvatico, eccetera, ci accorgiamo che sono uomini liberali, uomini moderati, uomini che poi avranno anche più innanzi, cioè dopo il 66, un loro peso nella vita politica o amministrativa o culturale del Veneto. Si trattava di procedere moderatamente, ma non con flemma e con pazienza. Si trattava appunto di auspicare la definitiva trasformazione della provincia. Finora ci siamo prescritti il maggior confine di interessi amministrativi e di questioni comunali. Sono irrompendo di tratto in tratto con la prestazione di prosa, a discorrere di letteratura o di altro. Ebbene, a tutto questo inserteremo un posto nel nostro programma futuro, ma un posto subordinato, poiché il principale sarà consacrato, siamo nel 2006, alla politica. E quando uscirà questo giornale rigenerato? E in che modo, se qui appunto sta il problema? E queste cose sono più o meno dette nel cognato della maggio del 1800.